D'Alema e altri importanti uomini della sinistra italiana si accingono a votare a favore del governo Dini. In piena coerenza, va detto, con un andazzo già iniziato da tempo, assecondando il principio di aiutare i più deboli, si fa per dire, più le rappresentanze politiche della classe dirigente affogano nelle proprie contraddizioni, più hanno bisogno del sostegno del buon samaritano di turno. Se il samaritano è di sinistra, meglio per il samaritano e peggio per la sinistra. Lontano da Roma, lontano da botteghe oscure e dalla scuola di partito di bolognese memoria, a Kota Baru, 340 km a nord-est di Kuala Lumpur, in Malaysia, un ingegnoso e paziente contadino aveva addestrato una scimmia a salire sulle palme rimanendo al suo guinzaglio, cogliere le noci di cocco e lasciarle cadere a terra per il proprio beneficio materiale e morale. Dagli e dagli, questa scimmia ha capito il significato dell'alienazione capitalistica e giorni fa si è decisa a non lasciar cadere l'ennesima noce di cocco. Ha invece valutato attentamente la situazione ed è quindi passata alla soluzione del suo problema. Ha tirato la noce di cocco sull'ingegnoso contadino, spezzandogli di netto l'osso del collo. Il comunismo va così. Mentre chiude un'esperienza da una parte, sorprendentemente ne riapre un'altra altrove.